Quante stelle ci sono? Quanta acqua c'è nel Mediterraneo? Perché restiamo attaccati alla terra quando la libertà galleggia lassù? Perché parliamo così tante lingue eppure ancora non ci capiamo? Perché ci sono amore, dolore, invidia e rabbia? Cosa sarebbe il mondo se tutto questo non esistesse? Ho così tante domande, ma non riesco a trovare risposte. Sono l'unico a fare queste domande, o a tutti non importa più? In questo nuovo mondo frenetico, da bambino cercavo risposte. Nei libri, nei film, ma fino ad oggi non ne ho trovate. Solo un cuore che continua a chiedere. Tempo rimane una lacrima finché non si asciuga sulla pelle, perché la falsa felicità sembra così reale e la vera vicinanza a volte è così falsa, perché non riusciamo a capire gli animali e perché il silenzio è così spaventoso. Cosa succede quando moriamo? Esiste un al di là? Chi conosce le risposte? Ho così tante domande, ma non riesco a trovare risposte. Sono l'unico che si pone queste domande, o a tutti non importa.